Nostra radio al teatro. Salve a tutti, sono veramente felice di intervistare oggi dai camerini del teatro Faranume Paolo Pavan. È il primo artista a cui abbiamo presentato il nostro progetto, quello di portare della musica jazz all'interno di un teatro e soprattutto quello di portare musica esclusivamente Creative Commons. E devo dire che oltre l'entusiasmo da parte del Teatro Faranume, che ringraziamo pubblicamente, c'è stato un ottimo entusiasmo da parte degli artisti. Con Paolo siamo entrati in contatto da diverso tempo, gli abbiamo presentato il progetto e lui ha aderito. Oggi Paolo è qui con noi per presentare un suo live e si esibisce insieme a Davide Marinacci al sassofono, a Francesco Merenda alla batteria e Marco Roccuzzo al contrabbasso. Ma dai Paolo, soddisfa la nostra curiosità, incominciamo con un'intervista e mettiamoci comodi e tranquilli. Intanto, se vuoi salutare il pubblico dell'Arte Radio Roma, ti lascio i microfoni in modo tale che puoi anche esprimerti. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Arte Radio! Dai regà! Allora Paolo, musicalmente ti conosceremo meglio fra un po', perché comincerà il tuo live e noi lo trasmetteremo in diretta. Ora concedici di conoscere la tua persona e vorremmo sapere qual è la tua storia artistica, come ti sei avvicinato al mondo della musica e qual è stato il tuo percorso formativo. Fu un amico che mi propose la prima sigaretta, poi da quella sono passato, dai, come tutti, ascoltando la musica dei più grandi. Poi ai miei tempi non c'era molta scelta. I dischi giravano di casa in casa, di amico in amico. Poi prima il rock, fu folgorato dai Genesis. Il primo spartito che ebbi in casa, se non mi sbaglio, è Second Out, che suonava all'organo come matto, praticamente tutti i giorni. Poi vabbè, il jazz fu veramente una scoperta, un motivo di evasione. A 14 anni iniziai a studiare in una scuola al centro di Roma, che per me, che ho sempre vissuto in periferia, era un po' come un viaggio. Ogni volta mi facevo un viaggio, un altro mondo poi. Poi ecco, ricordo Stefano Sabatini, Riccardo Biseo, Bruno Tommaso. Questi erano i miei primi maestri di musica. Poi dopo musica classica, etnica, musica pop, insomma una serie di cose. Questa è tutta una serie di cose che mi ha permesso un po' una continua esplorazione e quindi poi realizzare pure le mie idee, insomma. Caro Paolo, adesso porrei a te ancora un'altra domanda che è sempre sul personale, per conoscerti meglio, ma non per romperti le scatole, perché io credo che fondamentalmente ogni artista debba essere conosciuto per quello che sono le emozioni che esprime mentre suona. però è bello anche conoscervi come persone. Quindi ti chiedo, dici caro Paolo, perché hai scelto la musica jazz come espressione artistica? Ma sicuramente la cosa più importante che scoprì agli inizi fu il suonare con gli altri. Ecco, direi questo. Cioè, mi ha aperto un mondo, imparavo dagli altri e rimettevo al centro. Un po' come succede nel calcio, oppure come... ma come un mulino a vento, diciamo, che prende aria e la trasforma in energia, altra. Poi l'improvvisazione, cioè la possibilità di comunicare le proprie idee senza nessuna costrizione. Un po' come essere liberi, diciamo, almeno lì c'è libertà. Noi della radio abbiamo voluto puntare su questo progetto musicale, che non è nient'altro che portare della musica, quindi degli artisti, in un ambiente come il teatro, per trasmetterlo successivamente in diretta attraverso la nostra radio. E mentre lavoravo a questo progetto ho notato una forte risonanza positiva da parte di voi artisti e anche dalla gente, circondata da curiosità per il progetto e anche partecipazione reale. Quindi mentre lavoravo mi è sorta una domanda che voglio porti per vedere qual è il tuo pensiero. Ma se noi abbiamo avuto appunto una risonanza positiva, qual è la situazione attuale dell'arte musicale a Roma? Ma, no comment. No comment, direi. A Roma ha bisogno di essere più attenta alle nuove proposte, ai nuovi musicisti. Poi deve investire di più e rischiare di più sulle idee, altrimenti se ne andiamo tutti, Gasperi? Se ne andiamo tutti, caro Paolo, se ne andiamo tutti. Na-na-na-na-na-na-na-tra radio al teatro. Vorrei parlare con te un po' di cultura, un po' perché nel respirare l'aria dietro alle quinte mi fa sentire così, e un po' perché forse è anche il luogo e il momento adatto di farlo. Qui a due passi da questo stupendo teatro c'è il luogo in cui fu trucidato Pierpaolo Pasolini. Proprio qualche giorno fa hanno sistemato un parchetto alla sua memoria proprio qua dietro. E lui nelle lettere luterane scriveva del dentro e del fuori. Tra poco ci accingiamo a ascoltare il live di Inside Out di Paolo Pavan. La domanda che voglio porti: qual è la correlazione tra le due opere? Praticamente nessuna. Cioè, la scoperta di una coincidenza tra Inside Out e il dentro e fuori di Pasolini mi ha lasciato stupefatto. È stato un po' un caso. Io avevo dato già il titolo a questa cosa, poi scoprì che lui aveva fatto questo articolo nelle lettere luterane nel 75. Però poi in realtà mi è sembrato come di sentire qualcuno che io avevo sempre amato, che improvvisamente mi dicesse vai tranquillo. In realtà, se vogliamo, possiamo dire che quando Pierpaolo parla di questa contrapposizione tra il dentro inteso come il potere, l'istituzione, e il fuori, il popolo, la vita, la realtà, parla anche della mia idea di musica. Penso sia un... Poi in realtà penso che la mia musica sia un conflitto tra il dentro, le norme, gli schemi, la tonalità, le strutture, e l'andare fuori gli schemi, provando a sovvertire gli ordini classici delle norme, esplorando la musica anche a rischio di sbagliare. Bene, il dentro e fuori è un eterno conflitto, anche se vogliamo un mio limite da battere, questo direi. E niente metafore sessuali, quindi, all'Inside Out, Gasperi. Mannaggia la miseria, anche Paolo mi conosce, vedi? Tra radio al teatro. Thank you. Mannaggia la miseria, anche Paolo mi conosce, vedi? È proprio vero che con te siamo in amicizia, è vero. Fammi raccontare questa cosa ai nostri ascoltatori. Da quando abbiamo aperto la radio, ci siamo imbattuti su Giamendo con le opere di questa persona e ci sono piaciute subito, perché realmente sono belle da ascoltare, ma soprattutto creano delle emozioni irreversibili che solo l'arte, se ben espressa, può dare. Quindi io conosco quelle che sono le emozioni che la tua musica suscita in me. Ma una domanda che vorrei porti, che mi incuriosisce, è la seguente. Ma quando suoni i tuoi brani, quali sono le tue emozioni? Ah, questa domanda mi piace, molto interessante. Però se io ti dico le mie emozioni, poi tu mi dici le tue. Perché se non coincidono lascio staff a musica. No, e quali sono le mie emozioni? In realtà le emozioni scorrono e cambiano forma continuamente. Sembra un caleidoscopio. Suonando a volte senti che queste emozioni in qualche modo si legano le une all'altra. E allora proprio lì ti rendi conto che stai dicendo qualcosa di interessante. La cosa è assurda, ma è provata. Almeno nel mio caso, quando i colori si armonizzano nella tua mente, generalmente si armonizzano anche nella mente di chi ti ascolta. Tu comunque, Gasperi, mi fai domande troppo difficili, io non so rispondere, porco Giuda. Ok, se ritieni queste domande difficili, te ne pongo una ancor più difficile, che entra nella logica dell'universo del ragionamento umano. Allora, un'altra Radio Roma ha un proprio credo, quello di diffondere attraverso la propria frequenza fantasma musica autoprodotta, insomma, di gente che altrimenti non avrebbe piattaforme, o licenziata diversamente dalla SIAE, come il Creative Commons, che è una cosa seria che permette agli artisti di farsi conoscere. Mentre io posso capire perché una radio vuole sposare questo progetto, quindi come la mia, chiedo a te, che sei un artista, e anche di un certo spessore, è la mia opinione, perché hai deciso di promuovere le tue opere attraverso la Creative Commons? Oh, ma quale spessore? A me sta a far montare la testa. Mi sto pure a dimagrire con la musica, altro che spessore. Sei trasparente. No, in realtà è un'esigenza. Solo l'esigenza, a un certo punto mi è presa di diffondere le mie idee senza stare lì ad ascoltare i pareri di questo o di quello. Prima credevo ci fosse una figura fantomatica che stava lì a dare il lasciapassare alle idee. Quando vai dai mitici personaggi che stanno in Italia e che ti dicono: guarda, la tua musica è notevole, ora però siamo concentrati sulla pizza ai quattro formaggi, oppure prova a rifarti sentire l'anno prossimo, magari mia moglie la smette di uscire con l'amante. Dai, noi non abbiamo soldi, ho comprato l'azione dell'altra radio e sono andate male. Quelle sono vincenti. Alla fine ho detto: lo sai che c'è? Basta. Ho messo la mia musica su Giamendo e la gente poi si scarica e tu pensi: cazzo, questi scaricano e tu non fai una lira. Sei proprio furbo. No, vabbè, in realtà questo è l'unico strumento attualmente che ti dà la possibilità di avere un minimo di visibilità. Se io dovessi dare un consiglio a tutti, che consiglio diamo? Niente, lasciate perdere e compratevi una bella moto, quella sì che dà soddisfazione. No, dai. No, invece provate, buttatevi, è un'esperienza importantissima che ti mette in contatto direttamente con gli ascoltatori. Un'altra radio al teatro. Bene, bene, bene. In questo tempo strappato prima dell'inizio del concerto, dove normalmente gli artisti cercano di rilassarsi, rileggono gli spartiti, parlano fra di loro sul come affrontare la serata, abbiamo rubato questo piccolo spazio per raccontarci un pochino chi è Paolo Pavan e per parlare anche di progetti importanti come il Creative Commons o le iniziative dell'Altra Radio Roma, diciamolo. L'ultima domanda che ti voglio porre è una domanda un po' di rito, Paolo, e poi prometto che ti lascio tranquillo. Allora, quali sono i progetti futuri di Paolo Pavan? Allora, un paio di CD in cantiere. E poi suonare, ecco questo, sì, questo direi. Poi spero che alla fine da questo piccolo passo che viene fatto ne escano dei buoni risultati e si arrivi presto a fare di questa musica una realtà concreta. La Creative Commons è una cosa fondamentale oggi e l'unica cosa che manca è quella di organizzare intorno a questo una realtà viva e diffusa, luoghi dove potersi esibire costantemente. Comunque, Gasperi, a questo punto mi sembra il caso interrompe. Fammi pensare un po' alle note che devo suonare stasera, basta chiacchiere e buona musica a tutti. Ringraziamo così Paolo Pavan per averci dedicato un po' del suo tempo e ridò la linea in regia dove tra poco incomincerà il concerto di Paolo Pavan. Na na na na na na na Altra Radio. Al teatro.